Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Cecilia Castellazzi di Bloom Distribuzione per presentare il documentario Innocence di Guy Davidi al cinema da mercoledì 3 aprile 2024. Ben trovata. Grazie, ciao Federico, un saluto a tutte e a tutti. Cosa racconta questo lavoro? Io l'ho visto quando fu presentato allo scorso Festival di Venezia e mi è piaciuto tantissimo. È un film da pelle d'oca perché è un lavoro che il regista Davidi appunto ha impiegato 10 anni a realizzare, prendendo spunto dai diari e dalle lettere di alcuni ragazzi che scrivevano alle loro famiglie durante il servizio militare. Come cita il pressbook del film, fare la guerra fondamentalmente è una questione di sapersi raccontare, e lo Stato di Israele ha saputo raccontarsi molto bene. È una cosa che fa da tantissimo tempo. Sin da piccolissimi i bambini e i ragazzi sanno di avere un nemico, perché qualcuno gliel'ha detto, sanno di avere un nemico, di doverlo combattere e quindi di dover servire la patria nell'esercito. È proprio un'operazione di persuasione lenta ma costante. Questi ragazzi, i protagonisti del film, sono 5 o 6 i protagonisti che Davidi segue appunto attraverso i loro scritti. Ad un certo punto non riescono a reggere a questa pressione, si chiedono perché devono andare a combattere, devono andare ad ammazzare altri ragazzi esattamente come loro. Il film mi ha colpito tantissimo, è un film veramente che fa venire i brividi per certi versi. È stato un lavoro molto lungo che raccoglie appunto, oltre a questi scritti che nel film vengono narrati da una voce fuori campo, ha raccolto anche tante testimonianze video, i classici filmini che ogni famiglia gira ai propri figli, no? Durante la crescita, durante l'adolescenza, per cui ci sono anche questi reperti che sono estremamente commoventi. E il film è un duro atto di accusa contro questa politica di Israele, ma allo stesso tempo è un duro atto d'accusa che viene fatto senza aggressività, ma con una delicatezza, con un tatto nei confronti delle storie che vengono raccontate, che è veramente commovente. Inoltre il discorso è assolutamente allargabile, cioè non riguarda solamente Israele, ma diventa un po' un qualche cosa di universale. Questo culto delle armi, sappiamo bene che anche negli Stati Uniti c'è un grosso problema relativamente all'utilizzo delle armi, soprattutto fra i giovanissimi. È un atto d'accusa anche contro questo modo di pensare. Sappiamo che anche qua in Italia l'attuale governo sta cercando di modificare alcune leggi, no, che permettono l'utilizzo, la detenzione di armi. Anche noi abbiamo queste fiere di armi dove è concesso anche ai minorenni di partecipare coi genitori, di provare queste armi, per cui è veramente un discorso universale. A noi è piaciuto molto e abbiamo fortemente voluto che questo film arrivasse nelle sale, proprio perché riteniamo che debba esserci una sorta di presa di coscienza rispetto a questo tema. Sì, fa impressione vedere dal di dentro il lavoro che si fa a partire dall'infanzia sul nazionalismo, sull'odio verso gli arabi, sull'avvicinamento alla violenza e alla morte. Volevo chiederti che riflessi ha avuto in Israele questo film. So che il regista non vive più in Israele, ha dovuto andarsene. Lui è uno degli oppositori all'attuale governo e alle politiche che Netanyahu sta portando avanti, e sappiamo che appunto in Israele chi si oppone al governo, anche banalmente utilizzando i social per esprimere il proprio pensiero, viene bannato, viene perseguitato, viene perseguito, e estromesso, escluso, fatto sparire in qualche modo. Quindi Davidi ormai vive in Danimarca. Questo film è sì una produzione israeliana, in quanto lui ha comunque la cittadinanza israeliana, però essenzialmente è una produzione straniera, danese, finlandese. Non so nemmeno se il film in Israele sia stato visto e sia stato permesso. Che distribuzione sarà? In quante sale? È una distribuzione molto capillare, quindi come spesso accade per documentari che trattano temi sociali, non c'è in realtà un'uscita massiva in tante sale contemporaneamente, ma sarà molto a spot. Quando abbiamo iniziato appunto a portare alla conoscenza gli esercenti di questo film che stavamo distribuendo, abbiamo trovato tantissimo interesse, tanti ci hanno chiesto informazioni, tanti si stanno organizzando per creare degli eventi, perché in realtà è un film che si presta proprio alla discussione, all'evento, anche in collaborazione con associazioni che si occupano di temi quali la pace, la guerra, gli armamenti. Tra le altre cose, appunto, noi abbiamo portato questo film all'attenzione di Amnesty International e di Emergency. Amnesty International ci ha concesso il patrocinio, Emergency no, perché la loro politica rispetto al patrocinio implica che loro siano direttamente coinvolti nella fase produttiva, però hanno mostrato tantissimo interesse, faranno di tutto per promuoverlo, perché effettivamente è un film che sostiene il dibattito contro questa corsa agli armamenti, tra l'altro estremamente attuale. Di pochi giorni fa la notizia che molti stati europei stanno reintroducendo il servizio di leva, e quali effetti possono avere queste attività su dei ragazzi così giovani, dove ancora il loro carattere e la loro personalità si sta formando, possono essere veramente devastanti. Infatti, come giustamente dicevi tu, è impressionante vedere che già nella scuola materna ai bambini viene raccontato appunto che c'è un nemico da combattere, e noi abbiamo il nostro esercito, dobbiamo sostenerlo, per cui bambini potete disegnare quello che volete, potete disegnare il soldato, potete disegnare il fucile, potete disegnare la bandiera. Quindi questi concetti di patria, e di patria soprattutto che vada difesa, perché lo Stato è inviso agli altri, ha tantissimi nemici fuori, e quindi dobbiamo essere pronti. Io ho trovato questa cosa veramente agghiacciante, e Davidi lo racconta con una pacatezza e con una delicatezza, eppure con fermezza, quindi racconta effettivamente quello che accade in uno Stato come Israele, che fondamentalmente si è fondato questi concetti. Un'altra curiosità: all'estero che percorso ha avuto il film? Per quel che ne so, il film non ha ancora una distribuzione internazionale, se non nel circuito festivaliero. Quindi appunto ha partecipato al Festival di Venezia, però ci sono diversi festival ancora che lo ospitano. Per il momento, quando noi abbiamo contattato la società di distribuzione internazionale, che è Outlook di Vienna, una società austriaca, ci dicevano appunto che ancora nessuno l'aveva richiesto, perché effettivamente immagino che non sia un film facilissimo da distribuire. Ci tengo a precisare che noi non vogliamo schierarci contro Israele per partito preso, ma contro questo tipo di narrazione e contro la politica delle armi a tutti i costi. Ci devono essere delle soluzioni per arrivare alla risoluzione di un conflitto che non sia appunto attraverso il linguaggio delle armi. Questa è la ragione per cui ci è sembrato importante distribuire questo film. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Sul nostro sito, non appena verranno confermate le prime date, le pubblicheremo, quindi bloomnet.org/distribuzione. La prima data, credo proprio in uscita, sarà a Bergamo, all'Auditorium. La Bottanza, che gestisce la programmazione di questa sala, ci ha chiesto il film. Verranno coinvolte alcune associazioni locali che appunto si occupano di questi temi e che aiuteranno il pubblico a districarsi un pochettino in quelle che sono le politiche degli stati rispetto agli armamenti. Il documentario Innocence di Guy Davidi al cinema da mercoledì 3 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Cecilia Castellazzi di Bloom Distribuzione. A presto! Grazie Federico, un saluto a tutti e a tutte. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Autobiography, Il ragazzo e il generale di Makbul Mubarak al cinema da giovedì 4 aprile 2024. Ben trovato. Ben trovato Federico, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Piao. Che film è questo? Questo è un film molto molto interessante perché ha in sé sia gli elementi di interesse cinematografico per lo stile, il modo in cui riesce a usare la macchina da presa, gestire gli attori, la scenografia, l'ambientazione, e anche perché è un'opera prima di un regista indonesiano di cui sentiremo parlare. È una delle opere selezionate con maggior passione, direi, e convinzione alla Mostra del Cinema di Venezia numero 79, nella sezione Orizzonti, e ha vinto il premio della critica internazionale. Ma i selezionatori, con in testa Alberto Barbera e quindi Alessandra Speciale, Paolo Bertolin, sono molto felici che questo film finalmente esca in sala, perché è una rivelazione da questo punto di vista. Makbul Mubarak è un critico cinematografico che poi ha iniziato a fare cinema dopo aver studiato all'Accademia sia a Berlino sia in Indonesia, l'Accademia di Cinema, e poi ha debuttato con dei cortometraggi, e questa è la sua opera prima di lungometraggio. E si intitola Autobiography perché è in parte una sua autobiografia, cioè è anche la sua storia. Però noi abbiamo aggiunto un sottotitolo, Il ragazzo e il generale, perché c'è una parte a cui poi si arriva vedendo il film che è universale, cioè non è una storia privata o la storia di un paese, seppure importante, strategico in una parte del mondo come l'Indonesia, ma è anche una storia universale, cioè di come si possa trasmettere il germe dell'autoritarismo fino ad arrivare alla dittatura da un ex generale a un ragazzo. Molti ascoltatori ricorderanno il successo che hanno avuto i due documentari di Joshua Oppenheimer, cioè di Look of Silence e Act of Killing, ed erano due documentari che raccontavano la strage di militanti comunisti o presunti tali, perché poi quando una dittatura perseguita una categoria poi estende tra l'altro anche i parametri per perseguitare chiunque dia fastidio semplicemente alla dittatura. Ecco, quella storia dell'Indonesia che è stata caratterizzata dalla dittatura di Suharto, adesso che l'Indonesia ha raggiunto una certa stabilità democratica, comunque ancora rimane dentro, perché il germe dell'autoritarismo, lo vediamo anche in Europa, comunque esiste, una questione anche culturale. E questo film riesce a indagare attraverso la psicologia di un ragazzo che, lavorando per un generale per cui lavorava anche il padre, alla fine riesce ad essere fagocitato da un punto di vista psicologico e culturale da questo ex generale che apparentemente accetta di vivere la vita democratica e quindi fa campagna elettorale per essere eletto sindaco, ma poi all'interno dell'animo scava per inculcare delle idee autoritarie, discriminatorie e antidemocratiche. E quindi tutto questo percorso lo vediamo e ci entriamo dentro, e lo vediamo con interesse cinematografico perché il cinemascope, i piani sequenza, la scenografia ricordano molto Visconti, un certo Scorsese, però, e questo lascia ben promettere insomma per questo esordiente, però anche lo vediamo con un po' di orrore, capendo questo ragazzo ingenuo che diventa a sua volta un potenziale autoritario e discriminatore. E quindi questo percorso è raccontato in modo talmente magistrale che ci entriamo dentro e allo stesso tempo culturalmente spero ne siamo respinti. Ecco, quindi da questo punto di vista ci ha fatto molto piacere che Ricciardi abbia pubblicato un articolo su Venti Repubblica di elogio al film che aveva visto a Venezia e che è dunque contento che esca al cinema. Questa è naturalmente un'operazione culturale, cinematografica e, nel senso più ampio e nobile del termine, anche politica, e però naturalmente ha le sue difficoltà, perché poi uscire al cinema significa uscire in un mercato comunque, e però fa parte della linea di Cineclub Internazionale. Il Cineclub Internazionale si chiama anche così, proprio per spingere al cinema a portare il pubblico a vedere dei film come questo. Che tu sappia, all'estero che tipo di circuitazione ha avuto? Ha avuto una bella circuitazione festivaliera, perché da quando ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia, che era l'anteprima mondiale, perché sapete che la selezione ufficiale di Venezia prevede solo anteprime mondiali, poi ha girato subito dopo Venezia, è andato a Toronto, al Toronto International Film Festival, che segue immediatamente il Festival di Venezia, poi ha girato il mondo in vari festival importanti, ricevendo anche numerosi premi. Partendo dal Fipresci di Venezia, poi ha ricevuto numerosi premi. È anche uscito in Francia, perché è francese, distributore internazionale, è uscito in Asia, naturalmente è uscito in Indonesia stessa, dove giocava in casa, e man mano uscirà nei circuiti de sé dei vari paesi, soprattutto europei e asiatici. E per questo ci fa piacere di essere comunque tra i primi europei, certamente dopo la Francia, ma tra i primi europei extra francesi a presentare questo film in sala. E da questo punto di vista il successo di critica e di giurie e dei festival speriamo si affianchi al successo, al gradimento del pubblico, perché credo che quando sentiremo di nuovo parlare di questo regista per il suo secondo film ci ricorderemo di questo. E tra l'altro questo film nasce da un laboratorio open door di Locarno, in cui lavora anche Paolo Bertolin, che poi il Comitato di Selezione di Venezia lo ha selezionato perché ha visto il risultato eccellente del lavoro di Makbul Mubarak. Che uscita sarà? Ecco, in questo caso bisogna fare un'uscita prudente, proprio per portare pian piano, con tempistiche scaglionate, il film in tutta Italia, perché poi il Cineclub Internazionale ha l'obiettivo sempre di diffondere i film anche con più tempo in tutta Italia, anche nelle località più lontane dai centri. E quindi partiamo con Roma, Bologna, Milano, Padova, i grandi centri, per poi allargarci Torino, Brescia, Firenze, Cagliari, Napoli, ecco, e poi anche nei centri più piccoli. Questo film in particolare ha bisogno di un'uscita con queste tempistiche. Sappiamo inoltre che il mercato cinematografico italiano è ritornato, sta ritornando ai livelli pre-pandemia come totale di spettatori, ma probabilmente ha bisogno adesso di una spinta in più per quanto riguarda il cinema di sé, dove l'offerta probabilmente si sta riducendo, e noi dobbiamo cercare di riportare, non solo Cineclub Internazionale dunque, ma anche altri distributori, riportare il numero di film proposti che vengono dai festival, che sono di livello qualitativo alto, e riportare questa offerta a numeri più consistenti, in modo da continuare a offrire questa opportunità al pubblico. E noi tutti come pubblico ci formiamo anche vedendo questi film, poi confluiremo nei film più grandi, ma intanto vediamo anche questi film e conosciamo dei nuovi autori che poi faranno la loro strada. Quindi l'uscita in questo caso in particolare sarà organizzata in questo modo. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove? Il sito cineclubinternazionale.eu, la pagina Facebook, e poi siamo anche su Instagram, Twitter, X, insomma come lo vogliamo chiamare. Il film Autobiography, Il ragazzo e il generale di Makbul Mubarak, al cinema da giovedì 4 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Alla prossima! Alla prossima, grazie, un saluto a tutti gli spettatori e buon cinema a tutti. Con Vito Palmieri per presentare il suo film La seconda vita al cinema da giovedì 4 aprile 2024. Ben trovato. Grazie, buona giornata a tutti. Cosa racconta il tuo lavoro? La seconda vita è la storia di Anna, una donna dal passato oscuro che vuole riscattarsi e avere una seconda possibilità. Per questo motivo decide di trasferirsi in un piccolo comune di provincia ed è proprio all'interno di questa comunità che Anna riscopre la routine e riassapora la bellezza del quotidiano. Conosce anche diverse persone, tra cui Antonio, un uomo dolce e introverso con cui inizierà una timida e delicata relazione. Però il passato non sembra lasciarle scampo perché appunto il giudizio degli altri, a differenza delle sentenze e delle condanne, sembra non finire mai. Quindi è un film in cui si racconta la storia di una donna da un passato oscuro che prova a rifarsi una vita ed avere una seconda possibilità, ma purtroppo i pregiudizi si faranno sempre sentire e sempre vivi, ecco. Come nasce tutto? Ho voluto raccontare innanzitutto una storia che riguarda la possibilità di ciascuno o di chi lo volesse di avere una seconda chance, di scegliersi una seconda vita, perché tutti devono poter scegliere una vita nuova, anche chi ha avuto un passato difficile e complicato come quello di Anna. Nasce prevalentemente da una serie di lezioni di cinema che ho tenuto in un carcere a Bologna con diversi detenuti e dopo queste lezioni di cinema mi sono chiesto che vita faranno questi ragazzi che ho frequentato in questi mesi. Quando usciranno dal carcere potranno avere una vita normale, potranno avere una relazione anche sentimentale, serena. Queste sono le domande che mi sono posto io e spero che si pongano anche gli spettatori. Com'è stata la fase di scrittura? In un modo abbastanza classico, nel senso io e lo sceneggiatore Michele Santeramo, con cui ho scritto già i miei lavori precedenti, un cortometraggio, in particolare il Mondiale in Piazza, che ha vinto di Grazie al Festival di Venezia, e poi Riparazioni, che è un documentario sulla giustizia riparativa. Quindi ecco, proprio quando eravamo sul set, comunque giravamo questo documentario Riparazioni, ci siamo resi conto dell'importanza che aveva questo tema, di questa storia, di questo film che volevamo raccontare, cioè della seconda vita. Siamo stati affiancati non solo da detenuti con cui ho avuto modo di sviluppare alcuni snodi narrativi per renderli realistici e credibili, ma anche con psicoanalisti e criminologi che ci hanno supportato nella fase di sviluppo e poi siamo andati sul set. La scelta degli interpreti e delle interpreti? A me sono sempre piaciuti i due protagonisti. Maria Fontana, per me è una tra le attrici italiane più brave del momento, ho seguito tutti i suoi film, da Indivisibili, Capri Revolution, Romulus, anche la serie, e quindi l'ho selezionata perché avevo bisogno di questa donna che riuscisse a raccontare una vita del passato oscuro, tormentato, con i suoi sguardi, con i suoi silenzi, con i suoi modi e con i suoi atteggiamenti, ma anche un inizio di una seconda vita un po' più delicata, più speranzosa, quindi con uno sguardo che va oltre quel tormento che ha subito negli anni. Quindi sì, per questa sua doppia veste, ecco, perché ripeto, è una donna che racconta attraverso semplici indizi, perché non è tutto dichiarato, ma lo scopriremo verso la fine del film, in effetti questa donna che cosa ha fatto, cosa ha commesso, lei ha causato un evento drammatico che le ha stravolto la vita, ma lo capiremo solo guardandolo il film verso la parte finale, tutto ciò lo capiamo attraverso i suoi sguardi e i suoi atteggiamenti. E poi Giovanni Ansaldo, insomma, un attore che anche lui seguo da tempo, in particolare film come Razza Bastarda o come Ricordi di Valerio Mieli, e mi serviva una persona che anche qui riuscisse attraverso gli sguardi a rendere l'idea di che cosa significa essere timidi nella vita, che cosa significa essere introversi. E dal momento in cui ho avuto la possibilità di dialogarci e di fare un provino, mi sono reso conto che era la persona giusta, ecco. In base alla tua esperienza carceraria, che idea ti sei fatto su una seconda vita? Io credo che le condanne hanno una fine e purtroppo il giudizio degli altri no. E questa cosa è una cosa che tormenta un po' tutti, specialmente chi vive la vita in carcere. Molto spesso si chiedono come si comporterà la gente, potremmo avere una vita normale? E quindi l'unico tormento, l'unico ostacolo vero e proprio è proprio quello del pregiudizio. E io spero che anche questi pregiudizi possano avere una fine. E nel mio film si racconta un tema molto forte, che sì, la reintegrazione dopo il carcere, ma si racconta anche un tema che è quello della giustizia riparativa. Cos'è quando appunto un colpevole decide di incontrare una vittima? E io vedo un po' di speranza in questa forma, in questo concetto nuovo, rivoluzionario di giustizia, perché coinvolge la comunità, quindi non coinvolge solo il colpevole e chi ha subito il reato, ma anche la comunità stessa, ed è a questo punto che la comunità diventa un po' protagonista, cioè perché questa persona ha commesso un reato, come si poteva evitare, come si può evitare che accada di nuovo. Quindi secondo me un film rivolto specialmente alla comunità è andare contro il pregiudizio. Che distribuzione sarà? In quante sale? La distribuzione dello scrittoio con Arti Colture. Per ora abbiamo fatto una distribuzione un po' sperimentale, nel senso, visto il tema, abbiamo per la prima volta proiettato il film prima nelle carceri, dopo l'anteprima al Bifest, che abbiamo aperto il festival con il nostro film. Poi siamo stati in diversi carceri italiani, Bologna, Bollate, Bolzano, Trento, Volterra, Rebibbia. Quindi abbiamo avuto una distribuzione prima nelle carceri e poi nelle sale. Riguardo alle copie, stiamo coprendo tutta Italia, quasi tutte le regioni. Io seguirò il film anche personalmente, perché è un tipo di film che ha bisogno anche di essere seguito. Ci sono dei dibattiti molto sentiti, viste le tematiche. Il numero delle copie, ora non lo so, bisogna vedere anche come va questa prima settimana. Facciamo un'anteprima in Emilia-Romagna, che appunto ci ha sostenuto una regione con la Film Commission, al Cinema Modernissimo, e poi lo proiettiamo a Roma, al Cinema Troisi, al Cinema delle Province. Per sapere dove vederlo ci sono dei riferimenti web? Sì, basta seguire la pagina Facebook e Instagram La Seconda Vita e lì ci sono tutti gli aggiornamenti. Il film La Seconda Vita al cinema da giovedì 4 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Vito Palmieri. A presto! Ciao, a presto! Con Virginia Eleuteri Serpieri per presentare il suo film Amor in tour da giovedì 4 aprile 2024. Ben trovata. Buongiorno a tutti. Che lavoro è il tuo? È un film strutturato e composto a mosaico, con tante immagini. Immagini scattate da me o immagini di incisioni, di dipinti, di filmati dell'Archivio Luce, del mio album di famiglia, sia di riprese fatte appositamente per il film, sia in digitale che in Super 8, in pellicola. Insomma, è un film comunque con un linguaggio eterogeneo, con tanti materiali diversi messi insieme, è un vero mosaico, ecco. Cosa racconti? Io racconto un evento traumatico avvenuto 26 anni fa, quando mia madre è uscita di casa. Era il 1998, c'erano i mondiali di calcio quella sera, la finale proprio Francia contro Brasile, quindi chi abita a Roma sa che all'epoca, tra l'altro era luglio, Roma era deserta quel giorno, e lei è uscita, ha raggiunto il fiume Tevere e si è gettata. Quel giorno i miei familiari appunto erano fuori Roma, c'ero solo io, e quando sono tornata non l'ho trovata, e sapendo che in quel periodo non stava bene, ho preso la macchina dopo aver avvertito ovviamente tutti. Sono uscita di casa e ho cominciato a cercarla per la città. L'ho cercata dappertutto, tranne in un luogo. E quando poi il giorno dopo il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Tevere, io ho vissuto due traumi. Il primo da figlia che aveva perso la madre per morte volontaria, e il secondo da cittadina romana, che fino allora per me il fiume non esisteva. Invece poi dopo è diventato il centro per me non solo della città, ma anche del mio rapporto anche col lutto e con la perdita di mia madre. E da lì appunto ho fatto partire il film, dal fiume. Com'è nata l'esigenza di questo racconto per immagini? È partita appunto, come dicevo, dal fiume, perché dopo questo fiume, che l'avevo dimenticato, per me non esisteva, perché Roma ha avuto un rapporto col fiume simbiotico, cioè Roma era il Tevere, cioè il Tevere ha dato tutto a Roma. E poi però con la costruzione dei muraglioni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, questo rapporto dei romani col fiume si è sempre più assottigliato. Negli anni 90 era proprio quasi completamente abbandonato. Ecco, io da lì ho cominciato a sognare questo fiume e sognavo che mi tuffavo nel fiume, e lì nel fiume era tirata delle luci in basso, e queste luci in basso non erano altro che fotografie di mia mamma. E io cercavo di ricomporle, però erano a pezzi, e quindi cercavo di costruire questo mosaico. E poi scoprivo che sotto non c'erano fotografie anche di altre persone, e poi anche c'erano le rovine di Roma, c'erano le divinità di Roma, c'era l'immaginario di Roma. Ecco, a un certo punto, dopo questi sogni che mi arrivavano, questi flash di luce, queste memorie, no? Perché la memoria è come le immagini, ti arriva a frammenti, no? Sono dei flash di luce. E lì ho sentito l'esigenza di raccogliere tutti questi flash, no? Queste immagini a frammenti e metterle insieme e intrecciare l'album di famiglia, quindi la mia storia personale, con quelle della città. E da lì è nato il figlio. Di fronte a questo risultato, che emozioni hai vissuto? Diverse, perché è sicuramente stato un viaggio che mi ha aiutato, perché ad esempio mi sono imbattuta in questa frase che mi ha colpito e che secondo me, non mi ricordo dove l'ho letta, devo dire, però mi ha colpito perché descrive bene un po' il film e il perché io l'ho fatto. Perché poi nel film si vede questo viaggio che io faccio per Roma alla ricerca di mia mamma, con tutte queste suggestioni, appunto, sia storiche che artistiche e di storia personale. Più c'è quest'altro viaggio che fa lei, che praticamente, grazie appunto a tutte queste suggestioni, io mi sono immaginata che mia madre, dopo la morte, fosse catapultata in un altro mondo. E questo mondo era questo pianeta Amor, che è Roma. No, al contrario, ed è una Roma che assomiglia a Roma, ma non lo è, perché lì tutti vengono accolti ed è una sorta di paradiso terrestre. Ed ecco, lì, in quel luogo, anche lei cerca me, mia sorella. E quindi sono io a Roma che cerco lei e lei che cerca me, mia sorella, in questo secondo pianeta. E ora ritorno alla frase che dice che il dolore è un amore che ha perso la sua casa. E quindi io credo che io abbia fatto un film che racconta questa ricerca di questo dolore, che sia di noi che siamo rimasti qui, sia di lei che sta dall'altra parte e che cercano e non sono ancora, non ho trovato pace, perché questo amore non ha più una casa. E la casa poi in realtà è a Roma. Questa scelta di distribuirlo in tour? Beh, questa è più una scelta della produzione, che ha l'intenzione di farlo vedere non solo appunto a Roma, che comunque è una città centrale proprio perché è un film dedicato alla città, ma anche le altre, insomma, a Pesaria, a Bologna, a Brescia, per adesso abbiamo anche queste città, ma c'è in previsione anche Torino, Milano, insomma l'intenzione è quella di far vedere in più luoghi possibili. Ci sono degli spazi web per saperne di più sul film? C'è praticamente il canale sia su Facebook di Ste Film, perché il film è prodotto dalla casa di produzione torinese Ste Film e la coproduzione con Era Film, che è la casa di produzione lituana, e con la collaborazione di Rai Cinema. Tutte le informazioni si possono trovare sia sul sito della Ste Film, sia su Instagram e Facebook, e poi c'è anche un sito con diversi approfondimenti sul film, che è amorfilm.it. Il film Amor è in tour da giovedì 4 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Virginia Leuteri Serpieri. A presto! Grazie a tutti, grazie per l'attenzione e grazie per l'intervista. Con Susanna Pellis, direttrice artistica della 15ª edizione dell'Irish Film Festa, a Roma, la Casa del Cinema, dal 4 al 7 aprile 2024, ben trovata. Ben trovati, ciao, buonasera, ciao a tutti. Raccontiamo un po' cos'è questo festival. È un festival di cinema irlandese che esiste da un bel po' di tempo, 15ª edizione, abbiamo cominciato nel 2007, e che si propone di far conoscere il cinema irlandese in Italia, cosa che stiamo riuscendo a fare progressivamente sempre un pochino di più, ogni anno di più. E noi presentiamo quindi i film più recenti, facciamo film di finzione, documentari, cortometraggi, per i cortometraggi abbiamo anche un piccolo concorso, e poi c'è sempre tutti gli anni almeno un Irish Classic, cioè uno dei film del recente passato che per qualche motivo ci pare il caso di recuperare. Come si articola questa edizione? Ho scoperto progettandola che presenta la grande varietà che è solita avere il cinema irlandese, però si possono anche individuare dei percorsi all'interno di questa varietà, perché abbiamo innanzitutto quasi tutti i film girati in location rurali, quindi c'è un solo film a Dublino, tutto il resto è nelle varie contee dell'isola, infatti abbiamo anche il manifesto che lo segnala, il manifesto di quest'anno. Poi ci sono tanti documentari, la qualità dei documentari sta crescendo in Irlanda da diverso tempo e quest'anno veramente abbiamo corso il rischio di dedicare una buona fetta della programmazione ai documentari. E poi c'è un focus sulla letteratura, nel senso che ci sono diversi film che sono legati a libri o a autori, in particolare il film The Temer Face the Rising Sun, che è tratto dall'ultimo romanzo di John McGuire ed è messo in scena da un regista che secondo me è molto interessante, Pat Collins, un regista che ha una filmografia molto ricca alle spalle e soprattutto di documentari, anche lui, e che in questo caso invece ha lavorato con gli attori. Quanti sono i lavori presentati in questa edizione e com'è stata la scelta? Sono 12 lungometraggi e 16 cortometraggi, uno fuori concorso e gli altri sono tutti in concorso. La scelta è stata, come dicevo, forse difficile per quanto riguarda questo rischio che abbiamo deciso di correre, di proporre tanti documentari, però la qualità dei film ci fa stare tranquilli da un certo punto di vista. Abbiamo anche molte opere prime, ci sono film scritti, diretti, interpretati da donne, perché in Irlanda le opportunità sono anche per le registe donne sono notevoli. Io non è che ami fare le scelte a priori, però in effetti questi film valgono e quindi li presentiamo quest'anno. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Sì, c'è innanzitutto Pat Collins come ospite d'onore, regista di cui parlavo prima, e poi ci sono registi, attori, produttori. Noi abbiamo sempre questi incontri con i filmmaker irlandesi che sono forse il valore aggiunto del festival, perché danno sempre vita a incontri molto, molto vivaci, molto piacevoli, molto apprezzati anche dal pubblico. Com'è la situazione del cinema irlandese oggi? È sempre ovviamente una cinematografia piccola, perché stiamo parlando di un paese che ha circa 4 milioni di abitanti. Poi anche volendo sommare gli abitanti dell'Irlanda del Nord, comunque i numeri continuano a rimanere bassi, no? Però la produzione è in costante crescita, perché c'è, a differenza di quello che era successo nel passato, c'è una grossa attenzione da parte dello Stato irlandese che sostiene le produzioni locali, sia a livello di produzione che di distribuzione, e anche la circolazione dei film irlandesi all'estero, tant'è vero che il nostro festival è molto ben considerato e sostenuto anche appunto dall'ente cinema irlandese. Ci sono delle tematiche più presenti nel festival? No, nel senso che è proprio questa varietà che credo sia interessante. Sono film diversi sia come generi che anche come tecniche. Quest'anno per la prima volta uno dei documentari è semi-sperimentale. L'offerta è veramente varia. Tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, innanzitutto il nostro sito irishfilmfesta.org, e lì si trova veramente tutto, anche il rimando ai social, dove pure siamo molto presenti e diamo tutte le informazioni necessarie per venire alla Casa del Cinema a vedere i film che, ci tengo a ricordarlo, sono a ingresso libero. Noi abbiamo mantenuto, nonostante la politica della Casa del Cinema sia un po' cambiata in questi anni, noi manteniamo l'ingresso libero, la gratuità per il nostro pubblico. Quindicesima edizione dell'Irish Film Fest a Roma, alla Casa del Cinema, dal 4 al 7 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Susanna Pellis. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Fabiana Sargentini, regista del documentario La Pitturessa, in tour da mercoledì 10 aprile 2024, ben trovata. Ciao, buongiorno. Che storia hai raccontato? Ho raccontato la storia di mia madre, di una donna che ha perseguito tutta la vita la sua passione, nonostante forse intorno non ci fosse troppa attenzione, troppo riconoscimento, un po' delle sue doti professionali e del suo talento, e che invece la perseveranza e il talento in realtà, ma che non era così evidente, è stato riconosciuto perché ha 85 anni e con dei quadri fatti 50 anni prima, lei, Anna Paparazzi, mia madre, è stata selezionata da Maria Grazia Chiuri, la direttrice artistica di Dior, che le ha commissionato una scenografia per una sfilata a Parigi. E questa cosa aveva il sapore di una favola, quindi mi sono detta non posso non raccontarla. Da documentarista, avevo 20 anni fa fatto un documentario su mio padre, che era la figura, diciamo, di spicco della nostra famiglia, un gallerista famoso che aveva scoperto artisti dell'arte povera che ora sono in tutti i musei del mondo. Pino Pascali c'ha una grandissima monografica alla Fondazione Prada di Milano, inaugurata la settimana scorsa, e mia madre era un po' nell'ombra, no? E questo era un po' il contesto della nostra famiglia. Invece raccontare questa storia un po' come laterale, insomma, ha portato beneficio un po' a tutti, e mi sembra che arrivi anche ai cuori e alle menti delle persone. Spero che anche coloro che lo vedranno da mercoledì prossimo, che cominciamo la piccola tournée al Sacher di Roma da Nanni Moretti, possano apprezzarlo. Come hai deciso di strutturarlo? C'è sempre questo problema di dover scrivere un progetto, ovviamente per cercare soldi, finanziamenti, ma quello che io credo profondamente è che i documentari si costruiscano un po' girando e andando a braccio, trovando le situazioni o mettendole un po' in piedi, ma moltissimo al montaggio. Quindi il montaggio della pittoressa è firmato da Alice Rossinengo, è stata una prima collaborazione con lei, ma è stata cruciale, fondamentale, tanto quanto lo è il mio direttore della fotografia Simone Pierini, con cui faccio sempre tutti i miei lavori. E quindi al montaggio abbiamo inserito come dei capitoli interni che non sono esplicitati in maniera ufficiale, però sono un po' scanditi dalla mia voce fuori campo, che è molto minima. Sai, il lavoro di montaggio è stato difficilissimo, era molto delicato. Mia mamma è una signora comunque di una certa età, e lei c'è tantissimo, non doveva essere come troppo anziana in un certo senso, e poi era viva. Cioè, un conto è fare un film su una persona, un personaggio che non c'è più, che non può dire la sua, no? Che non può contestare quello che stai facendo o essere scontento o contento. Poi una madre viva. Insomma, era tutto un lavoro al bilancino, da dosare tutti gli ingredienti, e quindi al montaggio abbiamo fatto un lavoro di sottrazione di me, perché non c'era un ego che doveva predominare ed era giusto dare spazio alla voce di mia madre e alla persona di mia madre. Però è chiaro che sono io che lo faccio, sono io la figlia a fare il film, quindi comunque questo legame esiste, e credo sia anche un po' anche una chiave di lettura che forse consente una sorta di identificazione un po' in tutti, perché tutti abbiamo una madre, no? Che effetti ha avuto sulla vostra relazione questa esperienza? Gli effetti del film sono tantissimi, sia nella relazione tra mia madre e me. Lei si è sentita riconosciuta. Su Radio 3 sta andando per una trasmissione, si chiama Tre Soldi, un piccolo audio documentario, 3 puntate da 15 minuti, dalla pittoressa, in cui ci sono anche cose che non erano entrate nel film. E lì io inizio con una voce fuori campo nuova, fatta apposta per l'audio documentario, in cui dico che ho conosciuto per la prima volta mia madre giorno della sfilata di Parigi del 2021, e lei non era lì, nel senso che fare questo film mi ha dato la possibilità di conoscerla sotto dei lati che in fondo, così come lei è stata un po' oscurata, diciamo, dal grande talento e la carriera molto fortunata e molto felice e di successo dovuta alla sua bravura di mio padre come gallerista, anche per me un po' in fondo questa ombra su mia madre era caduta, e quindi ho potuto togliere l'ombra e riscoprirla. E poi questo film ha fatto bene, è stato terapeutico un po' per tutti, anche tra mio padre e mia madre, che sono separati da 30 anni, però ha rimesso come un po' di ordine in giro. È stato un film che ha unito, e questa è una cosa molto bella, trovo. Il titolo come viene fuori? È come mio figlio Flaviano diceva che cosa faceva sua nonna, che in realtà però lui non chiama nonna ma la chiama mumma. Mio figlio faceva dei neologismi e mi dice: che cosa fa mumma? Mumma fa la pittoressa. Rossa, ed è un titolo che secondo me è bello, mi piace. Mia madre aveva provato a usarlo nel 2016, ha scritto una specie di memoir dei suoi incontri, perché ovviamente ha conosciuto tantissime persone interessanti, artisti, musicisti, danzatori, indiani, americani, italiani, insomma, e aveva scritto un libro che si sarebbe dovuto chiamare La Pittoressa. Invece poi l'editore non ha avuto il coraggio di chiamarlo così, l'ha chiamato Arte Vita a Roma negli anni 60 e 70, che è un titolo che non si ricorda di Didascalico. E quindi però me l'ha lasciato libero e io La Pittoressa l'ho subito pensato che fosse perfetto per lei, per questa opera e per la definizione di mia madre. Che tour sarà? È un piccolo tour che tocca Milano, Torino, Venezia, Padova, Treviso, Firenze, in questa prima tranche tra il 10 e il 19, alla quale si aggiungono delle altre date al sud invece, quindi Bari, Barletta, Reggio Calabria, Palermo. Queste sono quelle sicure, a cui si dovrebbero aggiungere però delle date, sta ancora definendo il calendario. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Forse Kama Production e poi La Pittoressa, ci sta una pagina Instagram, una pagina Facebook. Documentario La Pittoressa in tour da mercoledì 10 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Fabiana Sargentini. A presto! Grazie Federico, grazie. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per sapere le novità del mese di questo portale, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, cominciamo innanzitutto con dei tournée nelle sale italiane. Vi segnalo ovviamente tre titoli con i quali siamo in tournée da diverso tempo. Due già li conoscete ampiamente, che sono Kissing Gorbachev and the Care Seekers, due produzioni SNK che continuano la loro tournée nelle sale italiane, non solo. L'altro titolo molto importante invece è Sconosciuti Puri, prodotto dalla Jump Cut di Trento e che abbiamo discusso insieme la volta scorsa. È uscito nelle sale il 14 marzo e ha iniziato il proprio percorso di tournée nelle sale. Un film molto importante a nostro avviso, che abbiamo avuto il piacere di accogliere, che ruota anche intorno, non solamente ovviamente, alla figura di Cristina Cattaneo e della battaglia che sta facendo per avviare o per comunque tentare di proporre una legge italiana ed europea sul riconoscimento dei corpi. È un tema ovviamente estremamente complesso e delicato, ma che si lega tantissimo anche, ahimè, a tanti ragazzi e ragazze che perdono la vita in mare durante il tentativo di arrivare sulle coste italiane ed europee. È appena partito nelle sale, nonostante abbia già fatto quasi un anno di tournée internazionale festivaliera. È stato anche nella cinquina dei Nastri d'Argento e sarà nella cinquina dei Grebi di Donatello. Vi consigliamo caldamente di cercare questo film molto particolare e molto intimo, se vogliamo, anche sul sito del film con tutte le date in aggiornamento e anche appunto nella propria città e anche a Roma, dove ci sono delle proiezioni. Aggiungo, Paco, che è una battaglia per il diritto all'identità. Esatto, esatto. L'identità è un tema estremamente complesso e articolato, ma per certi versi anche molto semplice, e cioè il rispetto delle persone, anche ahimè, quando purtroppo perdono la vita. È chiaro che la noncuranza di questo aspetto si lega anche molto spesso alla noncuranza dei diritti di cittadinanza, perché ovviamente non si può pensare che una persona sia più o meno importante in base al documento che ha in tasca, e chiaramente questa è un'estensione di tutto quel ragionamento sul riconoscimento dei diritti che conosciamo bene in questa fase storica e conosciamo anche molto bene i cortocircuiti che crea connesso ai fenomeni migratori contemporanei, nel senso che ormai è una storia che conosciamo in qualche maniera. Più i diritti vengono compressi per tutti, anche per quanto riguarda fasce della popolazione che hanno una situazione, ripeto, strettamente legale, fragile, quell'arretramento dei diritti è qualcosa che poi paghiamo tutti, nella vita, nel lavoro, nella società. Questo film è assolutamente in linea con scelte che noi abbiamo fatto anche in passato, vedi Milky Way, vedi The Harvest e altri titoli sia nostri che di altri autori. E poi devo dire che è un film veramente fatto bene, è proprio molto bello, molto intimo, e essere intimi su un tema così delicato non è facile, per cui vi consigliamo caldamente di cercarlo e di andare a vederlo. Per adesso solo al cinema, poi ovviamente sarà anche streaming tra qualche mese. E per quanto riguarda invece le uscite streaming, segnalo in particolar modo tre progetti. Uno è Brucia ancora dentro, che è un film molto importante, per noi molto, sicuramente molto importante, che racconta la terribile notte del 16 marzo 2003, quando Davide Cesare perse la vita per mano di un fascista in Milano, una storia a cui siamo molto legati anche per motivi biografici e personali, molti di noi, e quindi per noi era davvero importantissimo avere questo film in catalogo e dargli il giusto aiuto nella diffusione. Il film, tra l'altro, è disponibile sotto NDB, non solo in streaming, ma anche in questo speciale cofanetto con dentro un libretto fotografico e di racconto anche di quello che fa l'associazione oggi in ricordo di Davide, e il film in chiavetta USB. Quindi avete tutti i formati a disposizione, e aiutateci a diffonderlo perché è un titolo veramente importante. E se ne segnalo altri due a cui teniamo molto, uno è Maca, di Elia Mutamide e Simone Brioni. Sia Simone che Elia sono due autori storici del nostro catalogo che hanno girato questo film con la 5-6 di Brescia, una casa di produzione bresciana, sulla figura, spero di dirla nel modo giusto, di Genevieve Macaping, che è una cronista, scrittrice molto conosciuta soprattutto in Puglia, in quanto è stata tecnicamente la prima direttrice di un quotidiano italiano di origini migranti, quindi è una persona che è arrivata in Italia ormai molti anni fa, se non sbaglio 35 anni fa, e la cui storia è anche una bella storia di integrazione nell'unico senso che crediamo possibile, cioè quello di un rapporto tra pari, e quindi abbiamo con piacere accolto quest'opera. L'ultimo progetto che invece vi segnalo, che è un nostro progetto realizzato per la regia di Nicola Zambelli, è un progetto un po' particolare, nel senso che nasce tecnicamente come webserie di 33 episodi da un minuto l'uno, e il progetto si chiama 11 giorni, ma è, da questa webserie è tratto poi un mediometraggio di circa 30 minuti, dove abbiamo avuto la possibilità, che come sapete bene è estremamente complicata, di entrare con la telecamera dentro un carcere, il carcere Canton Mombello di Brescia, che è un carcere purtroppo in questo momento anche noto alle cronache per diverse situazioni tipiche, diciamo, della problematica carcere, quindi sovraffollamento, uso di psicofarmaci, piuttosto che situazioni di estremo degrado anche dei luoghi fisici e quant'altro. Sapete meglio di me che entrare dentro un carcere è complicatissimo, entrare con una telecamera è ancora più complicato, quindi sappiamo molto bene il valore preziosissimo di questi materiali che sono stati raccolti e che sono stati editati appunto in una sorta di webserie di pillole da un minuto che compongono un metro di 33 minuti circa, dove non solo si vedono le immagini dentro il carcere, ma tutto il racconto è affidato allo storytelling di alcuni ragazzi che sono appunto dentro questo carcere, attraverso proprio l'audio del racconto della loro vita in carcere. Il progetto sarà lanciato su OpenDB, in streaming ovviamente, a partire dal 29 di aprile, ma è già online perché faremo diverse iniziative in diverse città, dove ovviamente questo progetto verrà usato anche per aprire o riaprire o contribuire al dibattito sul problema delle carceri italiane, un problema che è cronico, come sappiamo bene, e che purtroppo in questo periodo sta anche decisamente riesplodendo. Non è casuale questo, nel senso che si lega molto anche alle scelte governative, alle scelte repressive in corso, per cui ci aspettiamo tutti una fase dove ci sarà una crescita esponenziale della popolazione carceraria, in una fase dove già le carceri sono sovraffollate, già le carceri sono estremamente degradate, per non parlare del concetto stesso di cosa significa punizione e sistema carcerario, su cui ci sarebbe da dire tantissimo. Per cui ecco, 11 giorni si chiama il progetto, vi consigliamo davvero di seguirlo, e al suo inizio è un progetto particolare, ripeto, ma dove siamo a disposizione per organizzare iniziative pubbliche città per città per provare a dare il nostro contributo anche a questo tema. Un abbraccio Paco, alla prossima! Grazie a voi, a presto! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.